versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, e oggi è una puntata un po' diversa dal solito, ma di quelle che ogni tanto ci prendiamo il lusso per riflettere meglio, per farvi riflettere meglio, ringraziandovi perché siete in ascolto, ovviamente come sempre ricordandovi l'indirizzo della trasmissione versione di Oscar @radio24.it, e ringraziando chi ci ascolta anche in podcast. Ma perché è diversa? Perché ogni tanto, invece di inseguire o le vostre proposte, perché sapete che spessissimo le puntate vengono da quello che scrivete all'indirizzo proponendo temi o autoproponendovi per raccontare la vostra storia e segnalare le cose che vanno o purtroppo più delle volte non vanno nel nostro paese, oppure inseguendo la cronaca, e ogni tanto ci permettiamo qualche trasmissione invece diversa per riflettere per mezz'ora attraverso un ospite che, o perché ha scritto un libro, o perché ha una storia particolare, o perché nella sua vita professionale e personale, e quello che fa oltre che nella sua vita professionale anche in pubblico, ci aiuta con un punto di vista del quale è difficile capire l'importanza inseguendo i fatti della giornata. Ecco, e questa puntata nasce esattamente a questo fine, e vi spiego subito il perché. Perché ho deciso oggi di invitare una persona che ho conosciuto anni fa, che seguo con grandissimo interesse da anni, e devo dire anche lo seguo anche con una profonda stima proprio personale, perché ho capito, conoscendolo, che crede profondissimamente in quello che scrive e che fa. Ha una particolarità, cioè è un professore ordinario alla Bocconi di Milano, e ovviamente questo significa nel dibattito pubblico italiano tutta una serie di conseguenze che in questi anni di crisi sono state appiccicate, per così dire, identitariamente a quella università. Che ne so, Mario Monti, il governo Monti, i tecnici spietati degli anni del rigore, le manovre recessive della Troica, Fondo Monetario più Unione Europea, le banche che nella crisi rafforzano i coefficienti patrimoniali e quindi rendono ancora più complicato nella crisi sostenere il credito alle famiglie e alle imprese, quando la logica intuitivamente vorrebbe il contrario, e al contemporaneamente però bisogna rafforzare patrimonialmente le banche proprio adesso e quindi rendergli più difficile il mestiere. Tutta questa serie di cose accumulate che sono diventate sempre più rilevanti nel dibattito pubblico. Pensate alla vicenda greca rispetto all'Unione Europea, pensate a quello che succede ogni qualvolta ci avviciniamo a documenti di finanza pubblica come le leggi di stabilità e il DEF. E in questo dibattito ovviamente dire economista bocconiano significa tecnico spietato al servizio della finanza e così via. Non mi interessa in questo momento dire è giusto o sbagliato, è così nel dibattito pubblico. Allora, l'ospite di oggi insegna sì alla Bocconi e di mestiere fa l'economista, però ha una tesi intorno a cui ruota tutto il suo insegnamento e tutto quello che scrive, che lo rende dal mio punto di vista straordinariamente interessante. Per questo ve lo propongo oggi. Io lo conobbi quando ero direttore di un giornale economico finanziario, ed eravamo tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008, quindi quando ancora c'erano i prodromi sul mercato della grande crisi che poi sarebbe sfociata nel settembre 2008 nel crack di Lehman Brothers, ma i più dei giornali e degli economisti all'epoca suonavano ancora il violino dicendo che non vi dovevate preoccupare, che c'era qualche segnetto di crisi, ma niente di che così sistemico da dover immaginare che c'era un mondo che si stava capovolgendo, che non aveva tutte le ragioni chi diceva guardate che anni e anni di politiche lasche della Banca Centrale Americana hanno fatto gonfiare una bolla stratosferica nell'immobiliare con i mutui subprime. Insomma, eravamo un periodo in cui a pensarla in un certo modo si era ancora in minoranza assoluta, e io gli proposi di scrivere esattamente quello che lui pensava, perché a dire la verità lui sosteneva l'esatto opposto. Io pure, ma lui lo sosteneva ovviamente con un'autorevolezza, una convinzione che era molto superiore alla mia. Mi chiese anche poi di fargli la prefazione di un libro, quel libro uscì nel 2008, per chi lo volesse rintracciare o leggere, si intitolava Patto di lucidità, come avvicinare Amore, istituzioni e paese reale, e anche quello era un libro che vale la pena di rileggere a distanza di anni, perché spiegava come la confusione costituzionale ed economica del nostro paese, che da una parte diceva decentramento e dall'altra non faceva nessuna scelta coerente a quello che diceva, ci avrebbe portato ad accrescere i problemi, come di fatto poi è puntualmente avvenuto. Allora, la tesi centrale del nostro ospite è che la crisi di questi anni non vada letta col criterio della prevalenza degli aggregati finanziari, di finanza privata e pubblica, perché la questione di fondo è che la colpa fondamentale della finanza che ha prevalso sull'economia reale e degli economisti che hanno potentemente, maggioritariamente spinto in questa direzione è quella di aver dimenticato che l'economia ha una dimensione che viene prima degli aggregati finanziari e di come si gestiscono attraverso gli strumenti finanziari i debiti pubblici e privati. E questa dimensione è quella antropologica, la centralità dell'uomo, dell'economia reale. Ma prima di dire economia reale, che uno pensa alle fabbriche, ai servizi e così via, cioè l'uomo, l'antropologia, e questa è la chiave fondamentale dell'ospite di oggi. Su questo ha scritto un libro che io vi raccomando di leggere, che è uscito nel 2013, che ha un titolo chiaro sul fatto che si appartiene a una minoranza, per così dire. Il titolo di questo libro è tutta un'altra storia, punto, ritornare all'uomo e all'economia reale, chiuse virgolette, punto. E l'autore di questo libro, e a pensarla così, è appunto il professor Fabrizio Pezzani, che è qui con noi oggi pomeriggio, che insegna economia aziendale ed è un esperto, in particolare tiene corsi poi su economia e management delle amministrazioni pubbliche, appunto presso l'Università Bocconi di Milano. Buon pomeriggio e grazie al professor Pezzani di essere con noi. No, grazie, noi ci siamo sempre dati del tu, non so se possiamo continuare a farlo. Ci diamo naturalmente del tu, ma ci tenevo insomma a dare una spiegazione succinta, probabilmente dimenticando molte cose, ma per far capire che sei depositario di una versione proprio diversa da quello che uno associa, col pieno rispetto per tutti i tuoi autorevolissimi colleghi. Allora, cominciamo con una serie di... Io ti faccio delle domande secche e tu tenta di dare delle risposte per far capire a chi è a casa perché la pensi diversamente. Innanzitutto, in che cosa consiste il fatto che la finanza ha preso la mano agli economisti prima e all'economia poi rispetto all'economia reale e alla centralità dell'uomo? Allora, tu prima hai parlato di crisi antropologica, no? E quindi se la crisi antropologica è una crisi culturale e morale, e quindi bisogna andare indietro nel tempo per cercare di capire le modalità con cui il pensiero si sviluppa, insomma. E questo è importante perché Einstein diceva: un pensiero che crea un problema non può essere lo stesso pensiero che lo risolve. Quindi io credo che dall'analisi storica e quindi dall'analisi della storia, quindi dell'analisi del pensiero, si sia andato affermando progressivamente nel tempo un modello culturale fortemente di tipo tecnico-razionale, no? Quindi in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti hanno assunto una dimensione trainante nella civiltà occidentale e hanno imposto un modello tecnico-razionale. Un modello tecnico-razionale fa guardare al futuro come garanzia di successo, ma fa dimenticare una cosa importante che differenzia gli uomini dagli animali, che è la prevenzione. La prevenzione consiste nel guardare il passato, cercare di capire le relazioni che collegano le cause con gli effetti sostanzialmente. No, quindi a un certo punto si è sviluppato un modello fortemente di tipo razionale e un modello socioculturale orientato ad affermare una verità prevalentemente di tipo sensistico, materialistico, insomma ciò che si misura si vede, si tocca e si misura. Questa verità progressivamente ha fatto sì che le scienze spiegano questa verità, quindi la verità sensibile, quindi la chimica, la fisica e quant'altro, assumessero una valenza più moralistica, più finalistica che strumentale. Quindi, per fare un esempio, noi oggi le domande che facevamo alla religione, oggi le facciamo alla medicina. Quindi il passaggio cruciale è stato nel 69, quando si dà il premio Nobel all'economia. Ora, in realtà va ricordato che Nobel non aveva mai considerato l'economia fra i premi assegnabili, ne aveva definiti 5, 3 alle scienze misurabili, chimica, fisica e medicina, e 2 scienze non misurabili, pace e la letteratura. l'economia si colloca fra queste due, quindi non può essere studiata come la filosofia né può essere studiata come la matematica. Eppure proprio l'iperformalizzazione matematica fatta dal pensiero economico delle più diverse scuole, la modellizzazione che discende in ogni scuola da alcuni assunti e che viene sviluppata attraverso la formalizzazione matematica, nella vulgata pubblica, nel dibattito pubblico, ha finito per radicare l'idea che l'economia sia da tutti i punti di vista una scienza esatta come la fisica, come la chimica e così via. Non è che gli economisti in questo ci siano andati con la mano leggera. No, anzi, devo dire che tu avevi fatto un pezzo quando è morto Samuelson, facendo riferimento al fatto che lui aveva scritto nel 1947 il primo libro di economia applicando la termodinamica di Gibbs. È importante questo riferimento perché nel 1947 lui pubblica questo libro, ma nel 1947 von Mises, che è uno dei grandi autori della scuola austriaca, scrive uno dei più grandi libri, secondo me, di economia, che guarda caso si intitola L'azione umana. E Friedrich von Hayek fonda la Mont-Pelerin Society e sarebbe stato considerato capo della scuola liberista, ma per venire a quello che dici tu, nel 1974, quando von Hayek prende il premio Nobel per l'economia, fa una lettura che invito tutti a leggere su Google dal titolo La pretesa di sapere. Esatto. E cosa dice fondamentalmente von Hayek? Dice: noi stiamo facendo un errore fondamentale, perché stiamo prendendo l'economia, che è una scienza sociale, morale, e la stiamo trapiantando nel campo delle scienze positive. Quindi lui dice: noi finiremo per studiare una scienza sociale come l'economia con l'abito mentale di chi studia la chimica e la fisica, dove peraltro le reazioni sono indipendenti dall'emozionalità dell'uomo, ma se io e te facciamo, o se con gli altri noi facciamo delle transazioni finanziarie, evidentemente noi siamo condizionati dal nostro stato emozionale. E in quel momento, diciamo, per dirla con Pascal, l'esprit de finesse viene lasciato e scartato a favore dell'esprit de géométrie. Ed è lì che nasce un'economia staccata dai suoi fondamenti, diventa un'economia di tipo quantitativo, in parte perché nella natura dell'uomo la rassicurazione, no? E il grande inventore della geometria frattale diceva: ma un uomo, pur di prendere un numero, prende anche quello sbagliato, no? E lentamente l'economia si è staccata dal suo DNA di essere scienza sociale, di accettare l'uomo nelle sue variabili, no? E quindi progressivamente si è andata configurando questo passaggio, secondo me fondamentale, che l'economia cessa di essere una scienza strumentale. La definizione che noi diamo di economia è quella di sono strumenti che servono all'uomo per rispondere ai suoi bisogni in presenza di risorse scarse. Il passaggio culturale che avviene in quegli anni fondamentalmente fa diventare l'economia una scienza finalistica, in altri termini potremmo dire così, che noi non guadagniamo più per vivere, ma viviamo per guadagnare. Allora, iniziamo a venire alle conseguenze sul mondo reale. In questi anni tu sei stato uno dei critici più, non feroci per il tono, ma più seri con gli argomenti, da dire: guardate che la troica ci porterà a sbattere, perché dimentica, con le sue proiezioni attuariali, pluriennali, di come si taglia per ridurre i debiti sovrani, l'impatto che ci sarà sulla vita degli uomini di quei paesi. Il caso greco dimostra che poi è puntualmente venuto. Tu lo dicevi prima, insomma, non hai aspettato. Qual è però l'alternativa di cui oggi siamo alla ricerca rispetto, come si vede ancora nella vicenda greca, all'impostazione troica fondo monetario? Breaking news. Interrompiamo di nuovo le trasmissioni, siamo costretti ad interrompere nuovamente le trasmissioni per collegarci con il centro di Milano. La situazione sta diventando veramente insopportabile, drammatica. Raffaella Calandra è in centro, dove si registrano scontri tra polizia e manifestanti no Expo. Raffaella, raccontaci quello che sta succedendo. Di fumo nero alta, si è alzata in questo momento su via Carducci, su piazza Caserma, e quel che resta della battaglia dei No Expo, che è stata forte fino a qualche minuto fa: lanci di pietra, ma anche soprattutto lanci di bombe Molotov contro la polizia, che ha blindato le strade laterali del percorso, contro le vetrine, contro le gioiellerie, contro forse anche una macchina che era parcheggiata lì. Noi abbiamo attraversato stato tutta via Carducci all'interno, diciamo, di questo che viene considerato il gruppo più difficile, più pericoloso, che sono ossia gli anarchici. Sono tutti vestiti di nero con il passamontagna tirato su, con il casco in testa, e hanno nelle mani martelletti, frangi vetrine, con cui hanno spaccato praticamente le vetrine di banche e poste lungo tutto il percorso fino a Piazza Cadorna, che si preannuncia essere un altro punto di scontro acceso. La polizia ha risposto con idranti, e prima c'è stata anche una carica sempre tra via Carducci e via Corso Magenta. Ora si stanno preparando tutti con delle mazze in mano, mentre sentiamo da lontano l'eco anche di altre bombe Molotov che vengono lanciate. La situazione è molto tesa e chiaramente è in fieri, staremo a vedere come questi altri minuti si svilupperanno. Enrico. Sì, grazie a Raffaella Calandra. Naturalmente maggiori dettagli e maggiori aggiornamenti nell'edizione delle 17, ma vi leggo anche le altre notizie che arrivano. Ovviamente tutto il centro, questa zona vicina a Piazza Cadorna, Corso Magenta, è interessata da questi scontri tra ferugli. Sono segnalati anche dall'agenzia ANSA, un centinaio di Black Bloc hanno lanciato pietre e bottiglie in Corso Magenta, gli agenti sono disposti in un cordone, le forze dell'ordine hanno risposto con lancio di lacrimogeni e hanno per il momento disperso questo blocco. Come dicevo, maggiori dettagli, maggiori aggiornamenti tra poco a GR24. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qua, tornati con il nostro ospite, il professor Fabrizio Pezzani della Bocconi, nel tentativo in questi minuti di farvi apprezzare un pensiero diverso rispetto a quello dominante e tradizionalmente associato anche alla Bocconi, ma questo vuol dire poco. Abbiamo tentato, parlando con lui, dandogli la parola, di farvi capire che esistono, e come economisti che sono dell'idea che bisogna rimettere l'economia reale al centro, che tutto questo nasce da un errore epistemologico commesso dalla stragrande maggioranza degli economisti nel presentarsi come sacerdoti di una disciplina fisico-razionale, come da questo discenda il fatto che moneta e prezzi degli asset finanziari siano diventati il punto di riferimento prevalente non solo della teoria degli economisti, ma della pratica di che cosa viene deciso dalle banche centrali come dai piani di salvataggio, anche se ci pensate bene il QI della BCE in realtà, come il QI della Fed, cioè gli interventi non ordinari nella crisi delle banche centrali, in realtà determinano effetti soprattutto sui prezzi degli asset finanziari e non nella vita reale delle persone. Allora, tentiamo di andare ulteriormente in avanti per capire come questa posizione radicalmente diversa dal professor Pezzani potrebbe riguardare alcune svolte nel nostro paese e in Europa. C'è anche, Fabrizio, un problema di, come devo dire, di egemonia che il sistema anglosassone si è preso nei confronti dell'Europa e dell'Italia? Sì, certamente, perché la finanza, e questo è interessante, no? Perché la finanza, che è diventata dominante negli Stati Uniti e di fatto nella cultura anglosassone fondamentalmente, no? Che è profondamente diversa dalla cultura europea. La cultura europea è una cultura di welfare, è una cultura, ha una sua storia, ogni paese e ogni territorio ha una storia di secoli. Noi, il nord è diverso dal sud, ma il nord le radici agricole hanno dato luogo alla mezzadria, al sud al latifondo del Bracciantato, quindi noi dobbiamo andare a vedere la storia. Ora, il passaggio secondo me importante è stato questo, e cioè che nel momento in cui, ritorniamo al discorso di prima, io pongo l'economia come fine e l'uomo come mezzo, noi abbiamo cambiato i ruoli, cioè noi dobbiamo scegliere se è vero che più migliora l'economia più migliora la società, o più migliora la società e più migliora l'economia. Beh, ed è tutto evidente che se io vado a prendere per esempio da noi i territori del nord dove c'è maggiore solidarietà c'è maggiore PIL, e quindi è la solidarietà che crea l'economia o viceversa. Insomma, la discussione di fondo è il passaggio che loro hanno avuto, cioè gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno sostanzialmente cavalcato una deregulation assoluta. Perché? Perché se il fine è massimizzare l'economia, tu devi sostanzialmente creare le condizioni perché chi ricerca o chi aumenta l'economia la realizzi nel modo migliore possibile. Ed è per questo che viene avviata una deregulation senza limiti. Bisogna fare più gol possibili senza che l'arbitro fischi il fallo. Penso solo ai derivati: nell'89 erano un ventesimo del PIL, nel 99 diventano il doppio del PIL, e Greenspan in quel momento li deregolamenterà totalmente e abolirà la Glass-Steagall-Act, che un italiano che si chiama Pecora, che si chiamava Pecora, nel 32 fece per aiutare Roosevelt. Quindi il cavalcare da finanza, quindi la finanza è stata portata sopra l'economia reale, e la finanza è totalmente diversa dall'economia reale perché ragiona sul breve tempo, sulla massimizzazione del risultato del breve tempo, mentre l'economia reale ragiona nel lungo tempo. Ed è per questo che la finanza diventa lesiva degli interessi collettivi che richiedono il lungo tempo e non il breve tempo. Ma nel mondo globalizzato, in quello post 2001 con l'ingresso della Cina del WTO, sì, perché gli Stati Uniti avevano bisogno di un acquirente immediato del più del loro debito, sia corporate che pubblico, in quel mondo ci si può chiamare fuori da questa logica, che è la logica dominante di tutte le banche centrali in realtà e dei flussi di capitale? Bisogna decidere se accettare di farsi continuare a tenere la pistola alla testa o no. Allora, è chiaro che se io vado a vedere i risultati, no? Cioè, se io prendo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, stesa ovviamente dopo il dolore, perché l'uomo sembra che debba imparare sempre solo dal dolore, e purtroppo non sempre, ci sono le grandi dichiarazioni dei diritti universali, quindi la libertà, l'uguaglianza, per quello che può essere, perché l'uomo per natura è diverso, insomma, no? E quindi il diritto alla salute, il diritto diciamo una serie di cose importanti. Beh, se io vado a vedere oggi, la mia situazione sociale è totalmente asimmetrica. Il patrimonio delle prime 85 persone al mondo è uguale a 3 miliardi e mezzo di persone. Ho una sterminata estesa di disoccupati, soprattutto direi di degrado morale, no? Quando una ragazzina si va a vendere per una borsetta, evidentemente dà alla borsetta un maggior valore della propria vita, quindi è un ridefinire la priorità dei valori sostanzialmente, no? Quindi noi non possiamo, credo, bloccare la storia, questo no. La storia peraltro si ripete, come diceva quel genio di Giambattista Vico, che nel 1725 scrisse La scienza nuova, e lui diceva: la storia si ripete perché l'attore è l'uomo, e l'uomo ha perennemente combattuto tra essere Caino e Abele, e ci sono certe volte in cui l'eccesso di Caino porta inesorabilmente le persone alla guerra, allo scontro, al dolore, e di lì ritorna poi la necessità di recuperare il senso di solidarietà e di socialità. Io l'ho scritto e penso che noi siamo in una fase simile al passaggio tra il tardo impero romano e il medioevo, e quindi la globalizzazione Bauman la definisce negativa nel senso che ha creato una serie di asimmetrie dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale, eccetera, e quindi queste asimmetrie tendono a generare maggiormente i conflitti. Un aspetto che secondo me è importante per sostenere questa tesi, cioè dei cicli di vita nella storia, che la storia si ripete, è Sorokin, che tu conosci, insomma, no? Che nel 1941 scrisse La crisi del nostro tempo, che sembra scritto domani mattina. Sì, esaminando 3.000 anni di storia, lui dice: noi abbiamo dei modelli, degli archetipi fondamentalmente, che si susseguono nel tempo. Ci sono delle società prevalentemente spinte da una dimensione spirituale, medioevo, o delle società spinte da una dimensione prevalentemente materialistica, no? E quindi il passaggio fra queste due fasi, medioevo, tardo impero romano, eccetera, noi oggi siamo in una situazione direi certamente materialistica, quella che Vico definiva l'età dei barbari. Ti offendi se dico che questa poi è una delle differenze di fondo per te e per chi come te chiede il ritorno all'antropologia, all'uomo come centro dell'economia invece della finanza, che però questa che hai appena detto è la differenza di fondo tra l'impostazione tua e di chi la pensa come te e di chi come marxista in realtà non respinge affatto la dimensione materiale come prevalente e superiore rispetto a quella antropologica e spirituale? È questa la differenza, perché altrimenti se uno non mette questa cosa al centro, le critiche alla globalizzazione sembrerebbero riecheggiare quelle di molti economisti marxisti. No, cioè da un certo punto di vista il marxismo, peraltro poi Lenin venne accusato per come l'aveva applicato. Io credo che il problema di fondo sia diciamo che il liberismo di fatto è inevitabile, cioè fa parte della natura umana, con Hayek, con Mises, lo stesso Adam Smith, insomma, no? Cioè tutti gli illuministi hanno sempre pensato in questo senso. Ora è chiaro che c'è un limite oltre il quale la scienza il sapere morale e il sapere strumentale si dividono. Io dicevo ai miei studenti, no? Chiedevo che cosa ci fosse scritto sul tempo di Apollo a Delfi. Allora, le insegne sul tempo di Apollo a Delfi apparentemente sembrano due descrizioni banali. Una dice: conosci te stesso e non superare i limiti, no? Eppure sono fondamentali, conosci te stesso, perché se non conosci te stesso non puoi conoscere gli altri. Allora io purtroppo ti devo ora concludere, perché siamo alla fine. Il senso del peras, cioè del limite che c'entra l'uomo, è quello che differenzia da tutti coloro che invece hanno l'aperon, cioè il fatto che l'uomo ha tutto e può avere tutto. Lo so che molti di voi pensano oggi che vi abbiamo un po' annoiato con questioni di fondo, però queste questioni di fondo differenziano gli economisti al servizio solo del ritorno finanziario della finanza da chi vuole invece pensare alla vostra vita e ai vostri redditi. Grazie e viva il professor Fabrizio Pezzani. Continuate con Radio 24, appuntamento domani dalle 10 alle 12, Conti della Belva, non mancate!